Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. C'è un bellissimo film del 1950 del regista giapponese Akira Kurosawa che si chiama Rashomon. È un film che vi consiglio di guardare, tanto perché è una bellissima opera, ma anche perché è una parabola straordinaria sulle mille sfaccettature della realtà, perché si parla dell'uccisione di un samurai a opera di un brigante. Però il fatto particolare è che a raccontarla ci sono quattro diversi testimoni e ognuno di loro dà una sua versione diversa, e le versioni sono contrastanti totalmente tra di loro eppure tutte plausibili. E vi dico già che alla fine del film non si capisce quale sia la verità. E vi ho detto tutto questo perché oggi dovrò fare una cosa del genere. Vi dovrò raccontare un evento tragico, un assassinio, quindi in questo caso i colpi d'ala sono terribili, anche se in qualche modo rovesciano più di una volta la realtà di quello che andrò a raccontarvi. Ma al di là di quello che è stato stabilito dal tribunale, dalla giuria, dai magistrati, è assolutamente impossibile dire quale sia la vera verità con certezza. Ci sono dei fatti inconfutabili, il ritrovamento di un cadavere, ma altri fatti, cioè il movente e di chi sia la mano assassina, non sono assolutamente sicuri. Oggi vi raccontiamo la storia di quello che è passato alle cronache come il killer del catamarano, e soprannominato così dai giornalisti dell'epoca, che sapete danno nomi molto fantasiosi. Il nostro protagonista è Filippo De Cristofaro, detto Pippo, che nel 1988 è stato accusato, processato e condannato all'ergastolo per questo terribile omicidio. E cominciamo intanto col dire che Filippo De Cristofaro, che peraltro è un uomo di una certa cultura, una persona cortese, ha dato di sé sempre un'immagine corretta, e lui ha sempre ammesso le sue responsabilità, ma non ha mai ammesso l'assassinio del quale è stato incolpato. Alla giornalista Franca Leosini, la mitica Franca Leosini, che lo intervista in carcere alcuni anni dopo la condanna all'ergastolo, lui risponde così. Signor Cristofaro, quanto vale una vita umana? Ma diciamo che vale molto di più di un ergastolo. Una vita umana vale molto di più di un ergastolo, e noi naturalmente siamo d'accordo, e quindi cercheremo di raccontare nella maniera più particolareggiata possibile i fatti avvenuti per cercare di farci un'opinione su quello che è passato alla storia come il delitto del catamarano. Primo fatto certo: il 28 giugno 1988, al largo delle coste di Senigallia, in provincia di Ancona, il peschereccio Azzurra 83 recupera nelle proprie reti un corpo. Si tratta di una giovane donna orrendamente massacrata. Si chiama Anna Rita Curina, è una skipper 34enne originaria di Fano, in provincia di Pesaro. Anna Rita, laureata in lingue alla Sorbona di Parigi, era una grandissima amante del mare e faceva la skipper a bordo del suo catamarano Arx, che affittava ai turisti. Il cadavere viene riconosciuto dai genitori della ragazza, potete immaginarvi il loro strazio, vengono ricostruite le sue ultime ore, è così che si scopre che Anna Rita era salpata il 10 giugno dal porto di Pesaro col suo catamarano in compagnia di due turisti, l'italiano Filippo De Cristofaro e la sua fidanzatina minorenne, l'olandese Diana Beyer. Naturalmente la polizia si mette immediatamente sulle loro tracce, gli investigatori iniziano delle indagini approfondite e adesso vedremo dove queste indagini li porteranno. Nel frattempo noi cerchiamo di capire chi sia Filippo De Cristofaro e quale sia stata la sua vita fino al momento in cui sale a bordo del catamarano di Anna Rita Curina. Pippo, così lo chiamano gli amici, nasce a Bari nel 54, a 19 anni, dopo aver terminato il liceo si trasferisce in Olanda a Utrecht, dove ha degli amici, dove si impiega come contabile in una azienda, e lì conosce una ragazza, Ria Maurits, si innamorano, lei rimane incinta, si sposano, nasce una figlia Caroline, ma poi il matrimonio vacilla, i due si separano e a questo punto Filippo cambia vita, si trasferisce a Rotterdam dove apre una scuola di danza con un amico, Peter Gronendijk, un albino, un tipo molto particolare. La scuola venne aperta un po' distante dal centro di Rotterdam. Iniziamo, ero coadiuvato da un amico, che poi fu quello che venne anche processato insieme a me, Peter Grunendijk. Praticamente iniziamo questa scuola con due progetti ben separati, il dare lezioni e il sviluppare degli spettacoli per teatro. In quest'ultima attività c'era Diana Bayer con la sorella nel gruppo e fu proprio lì che la conobbi. Bene, tenete a mente questi due nomi, Peter Grunendijk e soprattutto Diana Bayer, perché è intorno a lei, a causa sua, che si sviluppa tutto quell'insieme di situazioni che porteranno al tragico omicidio. Il falco e il gabbiano. Nel 1984 Filippo De Cristofaro conosce quindi Diana Bayer, che si iscrive con la sorella alla sua scuola di danza. I due si innamorano all'istante, un colpo di fulmine reciproco. Però va sottolineato un fatto: Filippo ha 30 anni, è separato e ha una figlia di 10 anni. Diana di anni ne ha 13, è una bambina. All'inizio tengono nascosta la relazione, soprattutto ai genitori di lei, e non c'è da stupirsi. Poi la cosa viene fuori, la sorella capisce qualcosa, i genitori sono sconvolti che lei a 13 anni frequenti un uomo di 30, sono olandesi di larghe vedute, però insomma fino a un certo punto la cosa non va giù, inizia un periodo di liti, i genitori non la fanno uscire, la tolgono dalla scuola di danza, cercano in ogni modo di allontanarla da quell'uomo effettivamente un po' grande per lei, o meglio è lei che è troppo piccola, ma non ci riescono, anzi sortiscono l'effetto opposto. Dopo alcuni anni i due meditano la fuga. L'idea di andare via è stata di Diana, perché a noi nessuno ci correva dietro, nessuno diciamo ci mandava via, anzi noi siamo andati via a febbraio e stavamo preparando proprio lo spettacolo che avremmo dovuto dare a dicembre, quindi eravamo in piena attività lavorativa. In quel momento, infatuato di questa ragazza, avrei fatto di tutto pur di aiutarla. Appena partiti siamo andati in Polinesia, perché non per un motivo particolare, ma ci sembrava un luogo dove effettivamente potevamo un attimino evadere da tutto il resto e dove eravamo sicuri che insomma potremmo essere lasciati in pace. E i due fuggiaschi iniziano a girovagare. Dalla Polinesia si spostano a Milano, dove abita la famiglia di Pippo, poi tornano in Olanda per cercare di riappacificarsi con i genitori di Diana, poi vanno in Belgio, in Grecia e poi arrivano a Rimini, vivacchiano, ma il loro sogno è fuggire di nuovo in Polinesia e vivere il loro amore in piena libertà in un paradiso di pace. Io poi presi il lavoro in un hotel come portiere notturno, roba del genere. Passeggiavamo vicino al porto di Rimini e lì ci fu una persona che ci vide, ed era un amico dell'ex proprietario della barca che io comprai. Lui ci chiese che progetti avevamo, noi gli detto ma particolari progetti non ne abbiamo. Lui stesso ci disse che c'era una persona che aveva intenzione di andare alle Baleari con un catamarano. Ed eccoci a un punto chiave di questa intricata faccenda, quella che sembrerebbe una svolta, ma qui scattano le versioni differenti tra i due amanti. De Cristofaro infatti racconterà che l'idea di andare al Baleari col catamarano era solo quella di farsi una vacanza, di fuggire momentaneamente dalla routine. Diana invece ha una versione completamente diversa, perché lei racconta che in realtà stanno premeditando di rubare il catamarano e di fuggire in Polinesia. La verità è impossibile da sapere con certezza, teniamoci ai fatti. Quello che è certo è che Pippo e Diana decidono di partire, quindi incontrano la proprietaria del catamarano, la skipper Anna Rita Curina. Molto simpatica, era molto disponibile, abbiamo parlato del più del meno. Dunque, la partenza inizialmente era fissata per il 6, poi venne posticipata perché c'era questo suo amico Bersani. Questo suo amico aveva degli impegni, cioè lui doveva presenziare in una specie di mercatino, faceva degli oggetti artigianali, non so bene cosa fossero. Attenzione, un altro passaggio chiave: Anna Rita Curina informa i due che a bordo del catamarano con loro ci sarebbe stato anche il suo amico Stefano Bersani, quindi dovevano aspettare lui per partire. E qui altra versione dei fatti, perché De Cristofaro racconta che la partenza viene posticipata dal 6 al 10 e che Bersani, non riuscendo a liberarsi, li avrebbe raggiunti dopo. Diana invece racconterà ai giudici che Pippo fa pressione con Anna Rita per partire prima, in maniera che a bordo lei sia da sola. E qui c'è un punto a favore della versione di Diana, perché al processo questo Stefano Bersani, l'amico di Anna Rita, dirà che effettivamente Anna Rita gli aveva detto che non poteva aspettarlo perché i clienti volevano partire a tutti i costi. Comunque, il fatto certo è che il 10 giugno del 1988 di prima mattina il catamarano Arx, guidato dalla proprietaria, la skipper Anna Rita Corina, con a bordo due turisti, Filippo De Cristofaro e Diana Beyer, lascia il porto di Pesaro con rotta verso l'isola di Ibiza. E veniamo alle fasi cruciali della vicenda, ai terribili momenti sul catamarano. I tre sono appena partiti. Subito si verifica un problema tecnico. Uno dei due timoni non risponde ai comandi perché è molto sporco. De Cristofaro prende il comando e la Corina si cala in mare per pulire il timone dalle incrostazioni. Una volta risalita a bordo, Anna Rita fa una cosa che, nella versione di De Cristofaro, è determinante per lo svolgersi dei macabri eventi successivi. È innegabile che la Corina si tolse la maglietta perché era tutta fradicia, era bagnata. La Corina aveva impartito un paio di disposizioni a Diana dal punto di vista lavorativo di racimolare alcune lenze, di racimolare le cime perché erano disordinate a poppa, e quindi gli davo del lavoro. La ragazza mi disse in olandese che gli sembrava che questa la voleva allontanare, cioè io non ne vedevo il motivo sinceramente, però ecco, era una situazione in effetti che la faceva abbastanza soffrire. Insomma, la versione che Filippo De Cristofaro dà a Franca Leosini nel 94 dal carcere di Busto Arsizio, durante l'unica intervista che lui abbia mai rilasciato, appare chiara. La Corina è una bella ragazza, Diana è gelosissima e l'affetto e il rapporto tra i due è palesemente morboso, e quindi non vede di buon occhio la skipper che cerca di allontanarla con delle scuse e arriva a togliersi la maglietta, restando a seno nudo, con l'intento, secondo lei, cioè secondo quello che De Cristofaro dice di Diana, con l'intento di sedurlo. E Diana invece ha una versione opposta. Lei dice: avendo premeditato insieme di rubare il catamarano, era evidente che in qualche maniera bisognava neutralizzare la Corina, quindi Filippo non poteva avere nessuna mira su di lei. Insomma, un'altra verità difficile da chiarire. Altro fatto certo che risulterà dall'autopsia effettuata sul corpo di Anna Rita Corina, che peraltro i due, De Cristofaro e Diana, confermano, è che lo stesso giorno, il 10 giugno, il giorno della partenza, dopo il pranzo preparato a bordo, Diana fa il caffè, porge a Anna Rita una tazza dove ha versato una dose massiccia di sonnifero, Valium. Naturalmente De Cristofaro afferma che questo fatto lui non lo sapeva, mentre Diana afferma che era stato tutto concordato prima di salire a bordo, tanto che il Valium era stato acquistato proprio con l'intento di neutralizzare la skipper, di addormentarla. Insomma, le due versioni vanno ognuna a valorare le due tesi. De Cristofaro che incolpa Diana di delitto passionale e Diana che incolpa De Cristofaro di premeditazione. Il falco e il gabbiano. La vicenda che vi stiamo raccontando oggi è una di quelle storie dalle tinte forti, di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, perché ruota attorno a un omicidio veramente efferato, avvenuto nel lontano 88. Però gli sviluppi di quell'omicidio arrivano fino a oggi. Il protagonista di questa vicenda è Filippo De Cristofaro, detto Pippo, conosciuto come il killer del catamarano, anche il Rambo dei mari. Lui è al centro di una vicenda intricata, oscura, che gli è costata l'ergastolo per l'omicidio della skipper Anna Rita Corina, anche se lui si professa, diciamo, innocente o parzialmente innocente. Anna Rita Corina era la proprietaria del catamarano a bordo del quale si era verificato il delitto, e le ipotesi sono due. L'ipotesi della Diana Beyer, la ragazza che era sul catamarano, è efferata premeditazione da parte di Pippo De Cristofaro, che coinvolge la ragazzina in questo delitto per rubare il catamarano. Ipotesi 2, invece, l'ipotesi che sostiene Pippo è delitto passionale per mano della giovanissima amante, e noi la verità probabilmente non la sapremo mai. Abbiamo ripercorso gli eventi che portano i due amanti, Filippo che in quel momento ha 34 anni e la sua innamorata Diana che ne ha 17, sono sul catamarano della skipper Anna Rita Curina. Sembra un innocente viaggio di piacere di due turisti che vanno verso Ibiza. E lo stesso giorno della partenza, dopo pranzo, Diana Beyer prepara un caffè per tutti. Però quello che danna Rita contiene una dose di Valium. Ma perché mette il Valium? E anche qui ci sono due versioni. Filippo sostiene che Diana, accecata dalla gelosia, volesse addormentare la skipper per toglierla di mezzo, e in maniera, diciamo, generica. Diana invece sosterrà al processo che Filippo aveva premeditato questa trappola perché voleva rubare il catamarano di Anna Rita e andare in Polinesia. Ascoltate cosa succede dopo, sempre secondo il racconto di Filippo. Dallo scafo di destra, dove dormiva la Curina, è risalita, è uscita fuori Diana con questo coltello. Mi guardava con questi occhi un po' vitri così, no? Io non è che ho focalizzato subito la situazione, perché mi sembrava un pochettino anche surreale, cioè non riuscivo a inquadrare bene la situazione. Dopo essermi reso conto che Diana era lì con questo coltello sanguinante, gli ho chiesto che cosa fosse successo. Lei non mi rispondeva, non mi diceva niente. Quindi, secondo la versione di Filippo, dopo che la skipper, insonnolita e rimbambita dal Valium, va a dormire, Diana scende anche lei mentre lui ha il timone sopra. E poi, sempre secondo la versione di lui, Diana risale in stato confusionale, ha un coltello insanguinato in mano perché ha accoltellato la Curina e l'ha fatto di sua spontanea volontà in un raptus di gelosia. Sentiamo invece la versione di Diana, è diversa. È stato Filippo a metterle in mano il coltello, spingendola nella cabina di Anna Rita, dicendole fallo per amor mio, e lei, una ragazzina plagiata da quell'uomo così seduttivo, più grande di lei, ci ha creduto, annebbiata dalla passione, dal miraggio di una vita felice da vivere assieme in Polinesia. Insomma, è la verità, non si sa bene dove sia. Il fatto certo comunque è che Diana sferra una coltellata al fianco di Anna Rita Curina mentre la donna è addormentata profondamente dal sonnifero. E su quel catamarano, a parte la vittima, ci sono solo loro due, Filippo e Diana, quindi solo loro due sanno come si sono svolti i fatti. Anna Rita comunque viene colpita nel sonno e quindi non sapremo mai, i due continueranno fino alla fine a smentirsi e a contraddire uno l'altro. De Cristofaro per esempio racconta che a quel punto lui lascia il timone dell'imbarcazione, va a verificare l'accaduto, vede la Curina in un lago di sangue, la trascina sopra coperta. Lui dirà sempre che la skipper era già morta a quel punto perché ha incolpato Diana. Diana invece sostiene che la skipper Anna Rita, la povera Anna Rita, stava ancora respirando. Guardai Diana, guardai la Curina, cioè lì a un certo punto si trattava anche di una scelta, perché chiaramente io in quel momento avrei dovuto far rotta verso il primo porto, verso la spiaggia, avrei dovuto, diciamo così, far intervenire le autorità. Cioè non so se era vivo o era morta assolutamente, perché, cioè, io penso che era assolutamente morta perché non reagiva minimamente, però diciamo anche dal punto di vista di Diana, dal punto di vista dell'accaduto, non sapevo più cosa fare. Poi anche perché avevo questa ragazza che, insomma, qui volevo bene. Lì si sarebbe trattato di o consegnarla o rivolgersi all'autorità, oppure diciamo così continuare il viaggio. E in quei momenti penso che il sentimento abbia avuto sopravvento, perché andare alla polizia e consegnare Diana, insomma, sarebbe stato anche un po' catastrofico. Decisi per la seconda soluzione, cioè quella di continuare, diciamo così, di proteggere Diana. E a questo punto all'orrore si somma dell'altro orrore, perché sul corpo di Annalita Corina, sul suo capo, vengono trovate due grosse e profonde ferite causate, poi si scoprirà, da un machete, un coltello che si tiene a bordo delle imbarcazioni per recidere in caso di emergenza le cime impigliate. Insomma, Annalita Corina viene uccisa e probabilmente viene finita, viene massacrata per essere certi della sua morte. Ma da chi? E anche qui ognuno dei due accusa l'altro. Qui c'è un punto a favore della versione di Diana, perché la perizia del medico legale riterrà che la violenza dei colpi di machete inferti al capo della skipper non è compatibile con la forza di una ragazzina. E Filippo invece sostiene che Diana, inferocita dalla gelosia, abbia trovato anche energie che non pensava di possedere. Da questo punto le versioni dei due cominciano a concordare in tutto e per tutto, anche perché ormai più è fatto. Vogliono sbarazzarsi del cadavere, devono sbarazzarsi del cadavere, devono ripulire la scena del crimine. Avvolgono il corpo di Annalita in una coperta, lo zavorrano con un'ancora e lo gettano in mare. Che sia stato un gesto inconsulto dettato dalla gelosia della ragazza, un atto premeditato a scopo di furto, e ora comunque loro due, i due innamorati, sono liberi di fuggire verso quello che loro pensano possa essere, nel loro delirio, un radioso futuro. Adesso però Filippo ha un problema notevole, perché è rimasto da solo a governare un'imbarcazione molto grande e non ce la può fare, perché Diana non è certo una navigatrice esperta. Sapevo che fuggire con Diana era impossibile, lei ha un problema ottico, cioè la notte non distingue bene le distanze, e già mi era costata tempo addietro la chiglia della mia prima barca, quindi ero assolutamente convinto che non potevo andare via. Per questo telefonai a Peter del Porto San Giorgio, mi fermai a Porto San Giorgio, telefonai a Peter e gli dissi: senti, io ho una barca, la devo portare alle Baleari. E così telefona a Peter, ve lo ricordate, no? Peter Krönendijk, l'amico, l'albino con cui Filippo aveva aperto una scuola di danza. Ebbene, e qui Filippo sostiene di averlo chiamato da Porto San Giorgio, vicino a Fano, l'11 giugno, dopo aver attraccato col catamarano, e dice che lo chiama perché ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a condurre il catamarano. Ma anche qui la dichiarazione fa acqua, perché Peter dichiarerà agli inquirenti che Filippo non lo chiama l'11 da Porto San Giorgio, ma già il giorno 8 da Pesaro, e quindi lo chiama prima ancora che il delitto venisse compiuto. E questo è, come dire, è un'altra fish buttata sul tavolo dell'ipotesi di premeditazione. Peter Krönendijk comunque è ignaro della vicenda, o così dice almeno, raggiunge gli amici, tra l'altro arriva col suo cane, un enorme pastore tedesco, e quindi questo strano gruppetto salpa e non può passare inosservato. Più di un turista ricorderà di avere notato un catamarano bellissimo con a bordo un uomo, una ragazzina, un giovanotto albino e un cane enorme, insomma un quartetto che si fa notare. Così arriviamo al 28 giugno, quando al largo di Senigallia il peschereccio Azzurro 83, come abbiamo già detto, recupererà il corpo della povera Annalita Corina. Parte la caccia all'uomo, anzi all'uomo e alla donna, e la polizia si coordina per trovare il catamarano e soprattutto per trovare loro due, gli unici indiziati dell'omicidio, gli unici che potevano avere compiuto questo omicidio. Loro intanto si sono mossi, consapevoli del fatto che prima o poi il corpo sarebbe stato trovato, vanno fuori dai confini dell'Italia, arrivano in Tunisia. Arrivati a Tunisi, avevamo abbandonato la barca, e a Tunisi vendono i giornali italiani, e lì abbiamo visto, diciamo, le nostre facce sui giornali, e quindi a un certo punto abbiamo preso questi cavalli, perché era un mezzo di locomozione abbastanza economico, e niente, ci spostavamo dalla Tunisia andando verso l'Algeria, verso il Marocco. Cioè, sinceramente, senza un'idea ben precisa, volevamo allontanarci tutto lì. Però non riescono a allontanarsi. La polizia di Ancona li arresta tutti e tre. Non abbiamo più notizia del cane da questo momento. Comunque il gruppo viene riportato ad Ancona, dove ciascuno inizia a confessare dando la propria versione dei fatti. E questa è la primissima dichiarazione che Filippo De Cristofaro fa ai giornalisti appena arrestato. È il 19 luglio dell'88. Sono certamente vagando. Sono un ragazzo che è scappato con una ragazza per amore e che gli eventi hanno trascinato sempre più in giù. Purtroppo non è tanto una questione alla Rambo così valorosa, ma è più che altro un dramma. Ma la versione di Filippo De Cristofaro non convince i giudici, sono troppi gli elementi che non concordano, insomma il verdetto lo vede colpevole. Diana viene accusata di tentato omicidio, di concorso in occultamento di cadavere, però è minorenne, le vengono riconosciute tutte le attenuanti del caso, compresa un'evidente sudditanza psicologica nei confronti di un uomo così più grande di lei. Insomma, viene condannata a 6 anni e 6 mesi da scontare a casa sua in una struttura di recupero minorile a Rotterdam. Sconterà solo 15 mesi e poi avrà il suo colpo d'ala purificatore, diciamo così, perché si rifarà una vita, si sposerà e diventerà madre di 3 bambini, uscendo definitivamente di scena. Filippo De Cristofaro invece viene condannato a 38 anni in primo grado e poi la pena viene alzata all'ergastolo dall'appello e viene confermata in Cassazione nel 91, ma lui non si dà per vinto. Il 6 luglio del 2007 evade dal carcere di Opera nel corso di un permesso premio. E lo riprendono un mese dopo a Utrecht, nei pressi della casa dell'ex moglie. Forse voleva rivedere sua figlia, diventata nel frattempo un'attrice televisiva, ma non escludiamo che volesse in qualche modo tornare a cercare la sua Diana per qualcosa di ancora, come dire, morbosamente oscuro. Lo riportano in Italia, torna in carcere per scontare l'ergastolo, ma dopo altri 7 anni, il 19 aprile del 2014, in occasione di un altro permesso premio, evidentemente è sempre andato in carcere dove i permessi premi venivano elargiti come cioccolattini, e lui scappa di nuovo. Questa volta scappa dal carcere di Porto Azzurro all'Elba, prende un traghetto, lascia l'isola e Franca Leusini, la giornalista considerata un'esperta del caso perché è stata l'unica ad aver intervistato De Cristofaro, commenta così quell'occasione. Se a De Cristofaro non fosse stata tolta probabilmente quella che è diciamo la spinta per sopravvivere in un carcere, cioè la speranza, probabilmente non avrebbe commesso per la terza volta questo stesso errore di fuggire, di approfittare di un premio. Cosa voglio dire? Che le persone non debbano pagare per un gravissimo crimine commesso, sì, devono pagare, però togliere la speranza probabilmente può portare anche a gesti sbagliati, estremi, come quello che ha commesso adesso per la terza volta, forse per l'ultima volta, perché se lo prenderanno lui un'altra possibilità non la riavrà. Ma la polizia di Ancona non molla. Il 20 maggio 2016 la sua fuga finisce a Sintra, vicino a Lisbona. Finisce dopo 2 anni a bordo di un treno diretto a Lisbona la latitanza di Filippo Antonio De Cristofaro, il killer del catamarano, condannato all'ergastolo nel 1988 per l'omicidio della skipper pesarese Anna Rita Curina. De Cristofaro era evaso dal carcere dell'Isola d'Elba 2 anni fa. È stato arrestato ieri pomeriggio in Portogallo dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Ancona e del Servizio Centrale Operativo. Pizzetto, maglia a fiori e pantaloncini corti, 62 anni sulle spalle e un aspetto dismesso, che non hanno però tradito il fiuto dei poliziotti. De Cristofaro ha prima negato la sua identità, poi si è complimentato con gli agenti e ha detto: "La polizia di Ancona mi perseguita". E forse questo è il vero epilogo, forse a questo punto cala il sipario su questa terribile vicenda, su questa morbosa coppia e soprattutto su una persona che non c'è più. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, anche se noi oggi abbiamo raccontato una serie di colpi d'ala sciagurati e terribili. Forse solo Diana, dei protagonisti di questa storia,